Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buongiorno a tutti da Deborah Rosciani e ben ritrovati a Salva Danaio. Oggi e domani, lo ribadiamo ancora se a qualcuno questa informazione fosse sfuggita, per parlare dei temi legati alla crisi globale, alla manovra finanziaria del nostro paese, i suoi effetti, Radio 24 ha attrezzato in modo del tutto particolare il suo palinsesto. L'iniziativa si chiama Radio 24 Days Speciale Crisi e stiamo concentrando appunto gran parte delle nostre trasmissioni da ieri sui temi di attualità, e ricordo ancora i temi della crisi, la manovra finanziaria, i suoi effetti concreti ed anche un po' emotivi. Come state gestendo questa fase, le vostre scelte di investimento? Noi, come sapete, ci occupiamo più che altro degli impatti microeconomici, vale a dire le ricadute tra famiglie, risparmiatori e piccoli investitori. E ieri, dopo la consulenza che ci hanno offerto appunto i professionisti di AscoSim, l'associazione delle sim di consulenza indipendente, oggi abbiamo invece coinvolto un gruppo di promotori finanziari dell'ANAS. Ieri, per la verità, c'è stato con noi anche il presidente dell'associazione dei promotori finanziari appunto, e oggi invece un gruppo di loro, prima a Salva Danaio in diretta fino alle 13, poi vi ribadisco un po' la modalità con cui oggi vi forniremo, per quanto possibile farlo anche in termini generali, le nostre consulenze. Lo faremo anche in privato per due ore, come abbiamo fatto ieri. Ripeteremo questa felice esperienza perché ci avete chiamato davvero in tanti. Allora, vi comincio già ad indicare il numero di telefono a cui potete chiamare a partire dalle 13 fino alle 15, allo 02 46 52 24 44, e poi, per raccontarvi come è andata in queste due ore, ritorneremo in diretta come ieri a partire dalle 15 fino alle 16. Adesso però è tempo del nostro Salva Danaio tradizionale per parlare appunto di risparmio, come organizzarlo in questo momento, in un momento in cui è molto complicato fare delle scelte, non tanto perché i mercati stanno continuando ad andare in una determinata maniera, poi vi racconto anche quello che succede oggi in borsa, ma anche perché, come sapete, dal prossimo anno sono in arrivo tante novità, un po' più tasse da pagare, la rimodulazione appunto della tassazione sul risparmio, per cui tutte queste novità incideranno anche sulle nostre scelte di risparmio e sulle nostre scelte di investimento. Per cui, come si può fare adesso un utile check-up delle esigenze finanziarie che abbiamo e che ha la nostra famiglia? Chi ci aiuta questa mattina? Ringrazio e saluto i nostri ospiti, il primo gruppo perlomeno arrivato, perché poi ne ho un gruppo molto folto che distribuirò fino alle 16 di oggi pomeriggio. Alfredo Cesario, consigliere regionale ANAS in Lombardia, promotore finanziario di Azimut Consulenza, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a tutti. Ringrazio anche Paolo Guerra, consigliere regionale ANAS in Lombardia, promotore finanziario per Banca Generali, anzi Private Banker, buongiorno anche lei. Buongiorno, buongiorno a tutti. È un nostro fiscalista che già i nostri amici di Salva Danaio conoscono molto bene, Fabio Guffanti, consulente fiscale per banche, società fiduciarie, buongiorno e benvenuto. Grazie, buongiorno a tutti. Tra l'altro ha dei documenti molto scottanti che ha portato con sé, perché abbiamo qualche dettaglio in più rispetto alle informazioni che abbiamo potuto dare negli ultimi giorni su come verrà applicata la nuova mini patrimoniale sui nostri prodotti di investimento a partire dal prossimo anno. Allora, 800 24 0024, il numero verde per le vostre domande, per intervenire in diretta. Avete anche molte altre alternative per rivolgerci i vostri quesiti. Il più noto è il 349, la più nota è il 349-238-6666 per i vostri messaggi. Ci potete scrivere al nostro indirizzo di posta, che è salvadanaio@radio24.it, per non farci mancare nulla. E per gli appassionati di social network, anche noi siamo su Facebook, e lo dico ai miei ospiti che così mi guardano un po' basiti, però ci siamo accaduti anche noi nella trappola del social network, però è molto utile perché in realtà anche lì ci scrivono in molti e ci danno anche degli spunti molto utili per poter condurre al meglio le nostre trasmissioni. La borsa questa mattina, oggi la borsa aveva un appuntamento molto importante, che era questa asta della Banca Centrale Europea, grazie alla quale appunto le banche, il sistema bancario europeo, potevano chiedere finanziamenti per importi illimitati ad un tasso estremamente contenuto, circa l'1%. L'asta si è conclusa, la Banca Centrale Europea ha assegnato 489 miliardi di euro, peraltro, come abbiamo già detto prima nel giornale radio, questo ammontare rappresenta il più alto in assoluto per un'operazione di rifinanziamento a lungo termine, dopo il record di 442 miliardi del giugno 2009, che però erano stati assegnati per un'asta annuale, per cui diciamo che possiamo dire che le banche tirano un sospiro di sollievo, hanno un po' di soldini in più in pancia per poter non solo continuare ad acquistare anche titoli di Stato e quindi dare una calmata allo spread e ai rendimenti appunto dei nostri BTP, ma speriamo che utilizzino questo denaro per finanziare i mutui delle famiglie, per continuare a finanziare le imprese che sono in grossa difficoltà. Ce ne sono molte che non sono in grado di pagare la tredicesima in questo momento, per cui care banche, datevi un po' così un'occhiata intorno e vediamo di utilizzare razionalmente questo credito a tasso molto contenuto che la BCE ha fatto questa mattina. La borsa, in attesa di questo appuntamento, aveva avuto un andamento molto buono sia ieri che stamattina, poi ha rallentato il passo, adesso invece vedo che riprende a correre, per cui non so che cosa sia successo mezz'ora fa che aveva portato appunto i listini del vecchio continente a rallentare la loro corsa. Abbiamo di nuovo un rialzo vicino al punto per Parigi, Francoforte più 0,8, Londra più 0,45, Milano più 0,80%, bene tutte le banche, Intesa San Paolo più 5, Generali più 1,94, bene anche STM più 1,83, Mediolanum più 1,70, Azimut più 1,48, quindi c'è tutte le società che oggi sono rappresentate qui a Salvadanaio, sono stato in grado di darvi un buon benvenuto, non è stato merito mio naturalmente. I titoli in discesa invece: Prismi almeno 2, Unicredit perde l'1,28%, Parmalat meno 1 punto, Fiat Industria almeno 0,9%. L'euro sul dollaro a 1,3161, lo spread stamattina è arrivato ad un minimo di 445 punti base, poi è risalito a 4,70, insomma. L'importante è che intanto ci manteniamo sotto i 500 punti base, poi se riuscissimo a scrollarci anche i 400 sarebbe una buona cosa. Lasciamo la borsa, anche se rimaniamo su temi di mercato. Allora, così, chiacchierata a 360 gradi con i nostri promotori finanziari questa mattina, che poi metterò a disposizione anche dei nostri ascoltatori. Alfredo Cesario, comincio subito con lei e faccio una prima esplorazione, come ho fatto anche ieri con gli altri suoi colleghi che sono intervenuti a Salvadanaio, perché vorrei che mi raccontasse un po' come ha gestito la relazione con la clientela negli ultimi mesi, quali sono state le domande più ricorrenti che le hanno fatto. Immagino che cos'è lo spread, non lo so, l'hanno chiamata di frequente per chiederle mi spieghi come funziona il differenziale di rendimento fra i titoli italiani e quelli tedeschi. Ecco, certo, questo è un momento importante per stare vicino ai risparmiatori e ai clienti, e soprattutto per costruire portafogli efficienti in diversificazione e decorrelazione dai mercati per poter affrontare una crisi che assuma dimensioni sicuramente importanti. E proprio per il ruolo del professionista nell'affrontare questa crisi, mi permetta una metafora. Questa crisi è come un grande diluvio che c'è chi sta mettendo l'impermeabile, aprendo l'ombrello, invece probabilmente c'è bisogno di costruire un'arca per portare i nostri risparmi e i nostri investimenti verso terre emerse, e quindi la costruzione del portafoglio, che è l'arca con la quale dobbiamo portare i nostri investimenti, è sicuramente importante. La devo chiamare Noè per tutto il resto della trasmissione? Assolutamente no, ecco, quindi il nocchiero in questo caso è il promotore finanziario che si mette a disposizione del cliente. Ecco, le domande del cliente, le domande del cliente oggi sono di sicurezza e diversificazione, a differenza del rendimento che prima era la cosa principale che chiedeva il cliente, e quindi nella diversificazione la costruzione del portafoglio diventa molto importante. Quindi sono utilizzati per il raggiungimento di questo obiettivo i fondi obbligazionari con cedola che sono tanto graditi ai clienti, e i fondi obbligazionari con duration prestabilita per avere un rendimento certo, e addirittura vengono adesso chiesti dai clienti la diversificazione valutaria, che prima veniva considerata molto parzialmente. E quindi ad esempio per la diversificazione valutaria una delle monete che adesso viene presa molto in considerazione è il renminbi, per quanto riguarda le sue dinamiche, e quindi e anche nuovi asset class che si stanno presentando sul mercato, come i famosi cat bond, che sono quegli strumenti finanziari assimilabili alle obbligazioni che derivano però da contratti di riassicurazione. Questo per dire che il mercato però, è in evoluzione. Sono già strumenti un po' più sofisticati rispetto magari, non so, al taglio medio del risparmiatore che ci ascolta, chiedo. Sì, Certo. Diciamo che il risparmiatore che si rivolge alla figura del promotore finanziario chiede appunto questo tipo di assistenza. Questa crisi sta mettendo veramente in difficoltà il risparmiatore, che non sa dove mettere i propri soldi, e quindi una figura di riferimento che possa aiutarlo nella scelta di questi strumenti decorrelati può essere importante. Sono importanti anche gli strumenti tradizionali, prima avete citato i BTP, quindi è sicuramente interessante l'iniziativa di alcuni intermediari bancari e finanziari con i BTP Day, dove si fa sostegno all'economia italiana. L'abbiamo seguita attentamente con l'iniziativa sia il 28 novembre che il 5 dicembre, mi pare che sia stata la seconda, no, non è stata il 5 dicembre, è stata all'inizio di dicembre, insomma, la seconda, quindi BTP Day e Bot Day. Paolo Guerra, vengo da lei con la stessa domanda, chiedendole anche, però insomma, la diversificazione è la regola aurea che ogni promotore dovrebbe suggerire al proprio cliente in ogni fase di mercato, anche quelle più serene e quelle più tranquille, cose che non vediamo, situazioni che non vediamo da anni. In questa diversificazione che magari lei ha suggerito negli ultimi anni ai suoi clienti, c'è stata anche una tendenza a dire facciamo come stanno facendo gli americani, suggerisco anche a te di scappare un pochino dall'Europa, oppure ha rassicurato i suoi clienti incoraggiandoli a rimanere investiti anche nell'eurozona e nel nostro paese? Diciamo che quando si parlava con i clienti o si parla con i clienti di come, la sua domanda era come organizzare, della premessa che ha fatto organizzare risparmi, evidentemente quella è la fase importante, una fase molto importante. Una delle fasi più importanti che io affronto con i clienti miei, ma che credo che debba essere affrontato un po' da tutti quelli che si occupano di risparmio, è quella di, come dire, oltre a gestire l'asset allocation, che è una conseguenza di quanto può derivare da un colloquio che viene fatto con i clienti. Quindi io in buona sostanza suggerisco, o comunque parlando con i clienti, valuto da un metodo, praticamente suggerisco di lavorare con di costruire dei portafogli con metodo, con disciplina e poi con una dose di buonsenso che non guasta mai. Ma no? Questa dose, questo metodo e questa disciplina suggerisce anche ai clienti di non leggere i giornali, quindi di non guardarsi intorno e di non preoccuparsi per i fenomeni, la congiuntura internazionale che invece ci ha un po' mandato tutti sulle montagne russe, almeno emotivamente? No, assolutamente, tenersi informati credo che sia una cosa assolutamente importante, anche perché comunque questo consente di confrontarsi con l'intermediario a cui puoi affiderare i propri risparmi, in maniera che esca un rapporto comunque di piena fiducia. Quando parlo di metodo parlo di quindi l'approccio con il cliente nuovo, o comunque l'approccio con il cliente che di fatto vuole ristrutturare il suo portafoglio. Evidentemente per metodo intendo un importante colloquio dove emergano quelle che sono effettivamente le esigenze, gli obiettivi, piuttosto che quelle che sono le necessità immediate del cliente, del risparmiatore, e da quel punto diciamo si costruisce sempre con un certo metodo, come diceva prima il collega Cesario, si costruisce con un certo metodo un portafoglio che tenga conto delle varie asset class nella diversificazione, quindi diversificazione di primo livello, di secondo, di terzo e quant'altro. Questa è una fase molto importante sia nella ristrutturazione di un portafoglio sia nella costruzione di un nuovo portafoglio. A quel punto è importante la seconda fase, che è quella di essere disciplinate su quello che si è concordato e si è stabilito all'inizio. Quindi la disciplina è altrettanto importante, perché evidentemente non farsi prendere dalle fasi di depressione come stiamo vivendo adesso, o dalle fasi di entusiasmo come abbiamo provato nel 2000 con la bolla tecnologica, per esempio è importante, è assolutamente importante restare coerenti con le scelte e con il metodo che noi ci siamo dati assieme all'intermediario che ci... Ecco. Allora, poi entreremo magari ancora più nel concreto di questa applicazione del metodo appunto per gestire al meglio il proprio risparmio, anche se effettivamente forse avere un metodo con questi chiari di luna che abbiamo visto è stato un esercizio molto difficile per molti. Detto questo, non riesco ad introdurre il tema della tassazione, Guffanti, quindi le chiedo un minuto di pazienza, così poi la faccio parlare a lungo, però magari mi prendo 30 secondi di tempo per sentire subito la prima domanda della prima ascoltatrice, che oggi inaugura le chiamate all'800 24 00 24, Alessandra da Biella, che saluto, buongiorno, benvenuta. Buongiorno e vi ringrazio, vi auguro buone feste e buon Natale. Altrettanto, Alessandra, ci dica. La mia domanda era, dato che all'inizio sentivamo parlare delle transazioni finanziarie, di queste cose che venivano tassate, tipo, non solo sull'azionario, ma bensì anche sull'obbligazionario, e se vengono tassate, a parte il 20%, il 12%, quelle lì... Le quote sulle rendite finanziarie, ecco. Mm-hmm. Un arbitraggio, cosa diciamo familiare, non parliamo delle grandi sale operative, di queste cose. Come vengono tassate? Vengono tassate da un certo livello. Ma lei vuole capire, Alessandra, che cosa intende lei per la... Sì, la tassazione, ho capito, c'è la mini patrimoniale, c'è stato il superbolo di Tremonti, cosa intende per transazione finanziaria fatta a casa sua, un investimento in un prodotto finanziario? Certo, una transazione fatta che io in casa posso benissimo operare, comprare e vendere titoli di Stato, diciamo. Allora, aspetti un po' lì, Alessandra, io la mantengo ancora in linea, così magari poi a Guffanti le faccio chiacchierare con lui per stabilire un po' meglio che tipo di operazione viene fatta all'interno di questa famiglia, così ci interessa molto e capire insomma che peso avrà anche la tassazione sull'operatività domestica dei prodotti di investimento. Allora, ritorniamo a Salvadanaio, che aderisce naturalmente, inevitabilmente, anche a tutta l'iniziativa di Radio 24, Radio 24 Days Speciale Crisi, con un pacchetto di trasmissioni speciali sia in diretta che dietro le quinte. Adesso andiamo in diretta fino alle 13 regolarmente, poi sposto un bel gruppo di consulenti e promotori finanziari in privato. Potete già prenotare, non prenotate adesso, cominciate a chiamare dall'una allo 02 46 52 24 44. Vi faccio fare una chiacchierata appunto con un gruppo di promotori finanziari a cui potrete raccontare l'organizzazione del vostro portafoglio di investimento. Vi aiuteranno a capire se magari è quello che fa il caso vostro, come riorganizzarlo anche alla luce delle novità che arriveranno e anche alla luce di come potranno andare i mercati prossimamente, anche se non lo può dire più nessuno naturalmente, perché abbiamo visto che negli ultimi anni i mercati ci hanno più volte illuso, ci hanno spaventato, ci hanno sorpreso con reazioni del tutto incontrollate rispetto magari a notizie buone, o al contrario, come dire, reazioni molto negative o molto positive rispetto a notizie altrettanto negative e positive, insomma andamenti che non siamo più in grado assolutamente di anticipare. Detto questo, però, bisogna rassicurare le famiglie e far organizzare al meglio il proprio risparmio. È il momento giusto per farlo? Direi di sì, perché dal prossimo anno, arrivando un po' più tasse, arrivando anche una organizzazione diversa della tassazione sul risparmio, forse è il caso di capire bene come tutto questo funzionerà l'anno prossimo e quindi pensarci per tempo. Fabio Guffanti, allora, come già ho detto ieri, la manovra d'estate Tremonti ci aveva portato il superbollo e quindi praticamente la rimodulazione dell'imposta di bollo sui dossier titoli. Questo superbollo ha avuto un interregno di 4 mesi, da settembre fino a questo momento. Adesso da gennaio abbiamo invece la mini patrimoniale, che verrà applicata agli strumenti finanziari detenuti dagli investitori nella misura dell'1 per 1000 per il 2012, nella misura dello 0,15% annuo a decorrere dal 2013, e fino a qui sembra tutto abbastanza semplice. Come e quando verrà applicata intanto la patrimoniale? Esiste, l'ha già stabilito il governo, in che il 30 giugno del 2012 piuttosto che il 30 dicembre, oppure con altre cadenze? Questo è già chiaro? Allora, non è ancora perfettamente chiaro. Io ritengo che rimanga il discorso in valido finora, cioè sulla base del periodo di rendicontazione io vado ad applicare l'imposta, ovviamente su base annua. Quindi se il cliente sceglie un'unica rendicontazione annuale, e lo può fare, perché è ovvio che per legge sono 2 rendicontazioni semestrali, ma nulla vieta che il cliente dica voglio un'unica rendicontazione, quindi paga l'imposta una volta sola. Quindi su quello direi... A meno che poi non si possa spezzare a metà anche l'applicazione della patrimoniale se viene mantenuta, certo, la rendicontazione semestrale. Assolutamente sì. Comunque diciamo che non paga di più chi ha 2 rendicontazioni semestrali rispetto a chi ha una rendicontazione annuale. Diciamo che da questa rimodulazione che c'è stata un vantaggio indubbiamente c'è stato a livello di base imponibile, perché sono stati rovesciati i criteri. Con la vecchia manovra Tremonti si partiva dal valore nominale, se non c'era nominale si andava al valore di rimborso, se non c'era valore di rimborso si andava al costo di acquisto. Nell'ultima manovra, poi per carità c'è una fiducia di mezzo, per cui potrebbe essere anche un'ipotetica manovra attuativa o meno. Ecco, però a me, se non concesso che arrivi come ritengo che arrivi, diciamo che il vantaggio è stato quello di dire vado a tassare a valore di mercato alla data della fine del periodo di rendicontazione. e questo per esempio va a risolvere un grosso problema aperto con l'altra normativa legato ai titoli in default. Se io ho un'obbligazione Cirio o Parmat e ahimè già che incaglia il deposito pieni, titoli che non riesco a chiudere se quella robaccia lì sta dentro, brava, con la vecchia normativa dovevo valutarmela al valore nominale, quindi a 100 essendo delle obbligazioni hanno un valore nominale. Se li vado invece a valutare a valore di mercato, ecco che la musica cambia completamente, certo. In quanto io, se da un broker mi faccio fare una valutazione del valore di mercato della Cirio, della Parma, della Lehman Brothers, piuttosto che qualunque altro titolo in default, in questo caso vado a pagare l'imposta su un reale valore, certo, di ma senza scomodare titolo. Cirio o Parmalat, basti avere un fondo di investimento azionario che ha perso il 20% chiaramente rispetto a quanto investito, è chiaro che è più equo, ovvio, che venga tassato, ovvio, ai valori di mercato. Quindi questo sembra, sì, vedevo un le aspetto abbastanza cose più chiaro. Eclatanti, no, ecco, no, ha fatto benissimo, perché almeno rassicuriamo anche quelli che già sono, certo, imbestialiti per il fatto che non riescono a liquidare questi portafogli con roba in default. Tra l'altro saluto gli amici, perché ne ho molti, che stanno manifestando davanti all'ambasciata argentina a Roma questa mattina, perché tra qualche giorno verrà celebrato il 10° anno del crack argentino, e lì, a parte quelli che hanno aderito ai vari concambi che il governo ha offerto in questi anni, ci sono molte famiglie che non l'hanno voluto fare perché non gli ovviamente risultava conveniente, perché anche per principio non hanno voluto sottostare a questo default di questo Stato, e quindi c'è questa ennesima manifestazione. Io saluto tutte le persone che in questi anni tra l'altro hanno animato anche molte delle mie trasmissioni ricordando questo triste evento decennale. Peraltro si chiude anche il periodo di disponibilità per molti risparmiatori di poter far caso alla banca, perché queste situazioni cadono in prescrizione. Magari se ce la faccio ci ritorniamo anche nei prossimi giorni. Non vedo purtroppo molta utilità, se non, come dire, girare il coltello nella piaga di molte famiglie. Detto questo, rispondendo alla domanda che ci ha fatto prima Guffanti, l'ascoltatrice, che chiedeva come vengono tassate transazioni finanziarie interfamiliari, adesso non so se possiamo riuscire a ricostruire, almeno lei se ce l'ha fatta, allora, a ricostruire il quesito dell'ascoltatrice. Io posso cercare di dare una mia interpretazione, cioè se perché il quesito non mi era proprio molto chiaro. Diciamo che se la ascoltatrice fa riferimento ad un discorso di transazioni, delle operazioni fatte da casa tramite il trading online, non c'è nessuna esenzione piuttosto che riduzione d'imposta per il fatto che uno abbia computerino sulla macchina da gas mentre sta facendo caffè, rispetto al fatto che chiami la banca o il promotore. Se invece l'ascoltatrice fa riferimento ad un discorso di passaggio da un dossier all'altro, allora, innanzitutto si pone un problema di imposta sulle donazioni se questo trasferimento avviene a titolo gratuito, perché anche nell'ambito familiare c'è un'imposta di donazione del 4% che scatta oltre una franchigia di 1 milione. Ma che esula da tutte le misure prese da Monti, credo. Esula che da qua, tutte, qua non è intervenuto, questa è stata presa da Prodi nel 2006, quindi... dobbiamo scomodare 20 governi fa. Ecco. Sicuramente è un po' age e datata come manovra. Detto questo, ma magari possiamo reinterpellare Alessandra per capire che tipo di operazione voleva fare. Alessandra, sì, l'abbiamo recuperata. Qual è esattamente il tipo di transazione finanziaria che lei vorrebbe fare? Allora, il trading online, perché avevo sentito che appunto sul trading online avrebbero messo un'ulteriore tassa. Che a me risulti no, poi mai porre limiti alla provvidenza, no, fiscale. Però, ma, a parte il trading online, ma credo che qualunque sia l'intermediario che l'ascoltatrice scelga, ha comunque un dossier titoli aperto, per cui per quel tipo di dossier titoli avrà un importo sul quale calcolare poi la mini patrimoniale applicata. No, ma oltretutto, signora, la vado a tranquillizzare, perché anche a me, se non concesso che vogliono fare una norma del genere, puzzerebbe di legittimità costituzionale lontano un miglio. Perché sarebbe una palese discriminazione. Che differenza c'è se io faccio un'operazione col trading online, certo, rispetto a farla un intermediario direttamente fisico, certo. Quindi non avrebbe un supporto giuridico questa maggior tassazione del trading online rispetto a la normale tassazione che si paga con operazioni non fatte tramite trading online. Alessandra, se ci saltasse all'occhio qualche cosa che cambia relativamente appunto agli intermediari online, naturalmente ve le spiegheremo e ve le racconteremo puntualmente. Alfredo Cesario, quanto conta la tassazione dei prodotti finanziari nelle scelte di investimento della sua clientela? È vero che fino a poco tempo fa magari contava poco relativamente, sì, perché avevamo tre o quattro cose chiare, e adesso qua invece c'è da fare due calcoli. Fino ad oggi era un tema che la clientela non prendeva in considerazione, o comunque prendeva in considerazione marginalmente. Le ultime manovre invece fanno porre molta attenzione anche a questo tema. Diciamo che fino ad oggi, non essendoci un dispositivo definitivo, le azioni erano molte, quindi la preoccupazione e le telefonate che arrivavano da parte dei clienti erano proprio anche su questo tema. Oggi siamo in definizione delle tassazioni che sembrano delinearsi, e quindi sicuramente andrà valutato a fondo la posizione del cliente, anche se la norma è scritta molto bene e quindi non ci sono molti ambiti dove si potrà operare. Qualcosa si potrà fare ad esempio su le gestioni con struttura assicurativa, che invece hanno dei vantaggi dal punto di vista per recupero delle minus e plusvalenze, e anche per quanto riguarda la gestione successoria, che immagino sarà già in agenda di governo nel futuro. Allora, prima di sentire anche Paolo Guerra su questo tema, sentirei Fabrizio da Vicenza, che lo stesso ci chiede una delucidazione di tipo fiscale sulla quale neanche mi avventuro ad anticipare la domanda. Fabrizio, buongiorno. Buongiorno, grazie per l'opportunità. Grazie a lei. Allora, io l'anno prossimo, proprio all'inizio, dovrò vendere o svendere metà di certe obbligazioni che la banca mi aveva venduto anni fa. Purtroppo valgono meno di quando le avevo acquistate. Quindi non le sta portando, diciamo, intanto a scadenza naturale, no. Fabrizio, le deve liquidare prima. Okay. Metà, le altre me le tengo, così dopo sei mesi quest'estate mi daranno lo stesso la cedola, sulla quale la banca, come sostituto di imposta, si prenderà, cioè darà al fisco il 20%. Sono in regime di risparmio amministrato. Vorrei sapere, posso dare al fisco anche il 20% della minusvalenza che realizzerò sicuramente in gennaio? Se può compensare, Fabrizio. Allora, eccoci di nuovo insieme per il Radio 24 Days Speciale Crisi, che naturalmente inevitabilmente coinvolge anche Salvadanaio. Tutti gli ascoltatori che ci stanno scrivendo a proposito di come funzionerà la nuova tassazione sui buoni postali, sui prodotti di risparmio postale, li sto volontariamente escludendo da questa puntata, perché abbiamo organizzato la puntata solo sul risparmio postale per domani, per cui lo dico già da ora. Se potete, evitate di chiamarci più tardi all'altro numero che abbiamo messo a disposizione su questo argomento, perché ci voglio dedicare tutta la puntata di domani. Abbiamo le Poste Italiane, con noi abbiamo il collega di Plus 24 Gianfranco Ursino, che sono già disponibili appunto per chiarirci le idee su come funzionerà l'applicazione della nuova mini patrimoniale o della rimodulazione dell'imposta di bollo su questi prodotti di investimento, che hanno una diffusione vastissima fra le famiglie italiane, soprattutto quelle che non hanno la possibilità di mettere da parte moltissimo denaro, quindi scelgono prodotti di investimento molto semplici. I buoni fruttiferi, per esempio, hanno risposto proprio a questa esigenza negli ultimi anni, adesso verranno intaccati anche dalla nuova tassazione, per cui vi spiegheremo domani in che misura incideranno queste novità. Detto questo, allora, c'è un ascoltatore che ci scrive a proposito della signora che chiedeva delucidazioni sulla tassazione sulle transazioni finanziarie. Dice: la signora parla di Tobin Tax, non credo, parlava proprio di trading online, per cui speriamo di aver chiarito le idee. E invece, Guffanti, ritorno da lei per l'altro ascoltatore che ci ha chiamato, che deve liquidare un po' di obbligazioni bancarie il prossimo anno, non riesce a portare la scadenza evidentemente a questa esigenza familiare, quindi chiede che tipo di applicazione fiscale avrà, visto che sembra un portafoglio non particolarmente complicato, però sul quale va ad incidere la novità delle misure di Monti. Allora, innanzitutto, se la cedola che l'ascoltatore andrà ad incassare nel 2012 è una cedola a cavallo d'anno, quindi il periodo per esempio è 1 ottobre 31 marzo, tanto per fare un esempio, non andrà a pagare il 20% sull'intero ammontare della cedola, ma andrà a pagare il 12,5% sulla parte della cedola maturata fino al 31-12 e il 20% sulla parte della cedola maturata dall'1 gennaio al 31 marzo, quindi già la tassazione è minore sicuramente. Ma poi soprattutto il discorso che l'ascoltatore deve comprendere è che la cedola rappresenta un reddito di capitale a tutti gli effetti. La minusvalenza che lui ricava dalla vendita dell'obbligazione rappresenta un reddito diverso di natura finanziaria. Quindi ritengo che il nostro ascoltatore detenga queste obbligazioni nell'ambito di un banalissimo dossier titoli in rapporto di risparmio amministrato, ergo lui non può compensare la minusvalenza derivante dalla vendita delle obbligazioni con la cedola che va a percepire. Questo potrebbe farlo solo e soltanto se lui avesse una gestione patrimoniale individuale e detenesse questa obbligazione nell'ambito della GPM. Paolo Guerra, vengo da lei, le faccio fare il promotore finanziario. Adesso c'è un ascoltatore che ci scrive: se riesco a portare avanti fino alla fine della trasmissione oggi è un miracolo con questa voce. Se è corretto, Gianluca ci scrive, investire oggi in un Bund tedesco per mettere al riparo il mio capitale da un eventuale default italiano? Allora io, Gianluca, intanto vorrei cominciare a sgombrare il campo da questo, a parte che poi mai dire mai nella vita. Lo Stato non fallisce, lo Stato ristruttura pesantemente il suo debito, ma credo che questa ipotesi adesso la possiamo lasciare da parte definitivamente. Però siccome ogni tanto, come ho detto ieri, alberga nell'animo dei nostri risparmiatori che si sono spaventati nelle ultime settimane, molti hanno fatto anche questa corsa verso il titolo tedesco, che non rende niente ed è raso terra e sotto zero, però hanno ricercato la protezione. Lei che cosa ha suggerito a chi aveva un'esigenza di questo tipo negli ultimi mesi? Ma dunque, quello che penso io è che investire nel Bund tedesco sicuramente può essere un'opportunità limitatamente a quello che è il patrimonio del cliente. Il Bund tedesco, diciamo, a rappresentare la situazione della massima sicurezza. Chi le chiedeva la protezione totale, come credo chiedano tutti, poi tra l'altro, perché nessuno vuole buttare sulle montagne russe il proprio risparmio. No, difetto comunque anche il Bund tedesco, se parliamo di garanzia totale di sicurezza totale, credo che sia anacronistico parlarne, perché poi alla fine ci potrebbe essere un rialzo dei tassi, voglio dire, andare a prendersi un Bund tedesco oggi con questi rendimenti potrebbe essere anche abbastanza pericoloso. Quindi i Bund tedeschi vanno sicuramente bene, come vanno bene investimenti in titoli norvegesi, come va bene comunque l'investimento in titoli australiani. Cioè la gente oggi sta chiedendo un po' di tutto. Credo che Franco Svizzero, la cassetta però di sicurezza Lugano anche, le hanno chiesto pure questo? No, non me l'hanno chiesto perché comunque non ho questo tipo di... No, diciamo va bene un po' di tutto, no? Ultimamente i clienti hanno fatto investimenti in lingotti o qualcosa di simile, quindi va bene tutto. Credo che tutto si deve comunque prendere in considerazione e soprattutto coerenti con quello che era quel metodo di cui parlavo prima, no? Quindi una volta fissato questo tipo di, a livello di asset allocation, quelle che sono, proseguire su questa strada, quindi insomma, non di solo Bund vive il risparmio, insomma. No, direi adesso pare un po' di sì, però speriamo che questa come dire circostanza si smonti pure abbastanza rapidamente. C'è un altro ascoltatore che dice: fra una settimana mi scade un'obbligazione bancaria, ci dice la cifra, ho 70 anni, questi soldi mi servono per la vecchiaia e per la salute, è un importo modesto, 40.000 euro, che cosa fare? Ho anche altri risparmi, però adesso per esempio dovendo gestire questa scadenza. Cesario, faccio fare anche lei il consulente finanziario, come suggerirebbe di muoversi a questa persona? Beh, sicuramente il profilo del cliente è un profilo prudente e visto anche l'età bisogna tenere conto dell'investimento per quanto riguarda l'orizzonte temporale. A questo punto, come avevo citato prima, i fondi obbligazionari con cedola potrebbero rappresentare una valida opportunità per l'investitore. Obbligazionari nel senso dentro ci sono governativi e societari? Oppure... Sì, aggregate, quindi sia governativi e sia corporate. Quindi insomma un prodotto molto prudente che però gli garantisca questo flusso cedolare con cui lui può integrare evidentemente la sua pensione. Allora andiamo di nuovo, ci mancano pochissimi minuti, due, prima di concludere di nuovo il tema della tassazione. Sentirei Gian Pietro da Vicenza. Buongiorno Gian Pietro, molti vicentini stamattina, ma il Veneto so che siamo molto, molto ricercati. Gian Pietro, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie per aver chiamato. Niente, la mia domanda riguarda la tassazione su un ipotetico gain. Cioè, se io ho un portafoglio, un titolo da qualche anno e sto avendo un ottimo gain, un ipotetico gain. Un buon guadagno, Gian Pietro, me lo chiami in italiano perché sennò mia zia Bruna, che ci ascolta da Senigallia, non capisce. No, se io ho questo diciamo, ipotetico guadagno e... Cioè, per la nuova tassazione mi verrebbe tassato il 20% se io vendo l'anno prossimo, se io invece per usufruire invece del 12,5 se devo venderlo e poi ricomprarlo, diciamo, oppure c'è mi sembra di aver capito che c'è l'affrancamento, c'è un sistema che però non mi hanno saputo dire bene in banca. Buffanti sa tutto invece. Beh, anche loro poveretti, gli è arrivata la manovra praticamente l'altro ieri, quindi devono chiaramente mettere tutti i loro legali e fiscalisti in ordine con la normativa. Buffanti. Allora, nulla vieta che lei possa realizzarsi un'operazione sul mercato, per cui se lei se lo vuole vendere entro il 27 di dicembre, le dico il 27 di dicembre perché l'operazione poi, avendo 3 giorni di valuta, passa con data valuta 30 dicembre, quindi se voglio avere la tassazione al 12,50% non posso andare oltre il 27% come ordine. Diciamo che è già il caso di pianificarla. Assolutamente, perché insomma al 21 ci sono soltanto 3 giorni di borsa aperta. Se non lo fa sul mercato, esiste questa possibilità di riallineamento, quindi lei entro il 31 di marzo deve andare dalla sua banca, fare l'opzione per il riallineamento, la banca riallinea ai valori al 31 di dicembre, le calcola 12,50% sulla questo guadagno sulla carta che lei ha il 31 di dicembre, e lei questa imposta deve poi andarla a pagare entro il 16 di maggio, quindi ha una doppia possibilità di scelta. Benissimo, Buffanti, grazie per essere stato con noi, si prepari delle gran trasmissioni per i prossimi mesi perché la chiamerò spesso. Grazie ad Alfredo Cesario e Paolo Guerra, che adesso mi porto in privato per rispondere alle domande degli ascoltatori. Cominciate a chiamare allo 02 46 52 24 44. Noi ci risentiamo in diretta alle 15.